Giorno, ma dove sei tu? Più triste un'altra sera, discende qua giù, in questa vuota stanza, lasciata da te per non tornarvi mai più, perché nel libro dei ricordi, rimasto con me, le pagine più belle mi parlan di te. Le dolci tue parole mi fanno sognare come sognavo quei dì. Nel cielo già m'attende la luna che sa, è pallida e comprende che solo non posso star. Finisce un altro giorno, ma dove sei tu? La notte s'avvicina e solo qua giù, in questa vuota stanza, invano aspetterò che tu ritorni ancora sul mio cuore.